Ho trovato poi l'intoppo, ed è poi tuo padre.

Appunto, appunto. È possibile mai in questo punto con noi, signor Bruschino? A tempo, a tempo. Pria che con questo padre snaturato io torni a contrastare. Vuo che tu tenti a ragione ricondurlo e al suo dovere. Ma io, signore... Si tratta d'uno sposo. E viene, animo mia, di là verrai. E l'esito del fatto mi dirai. Forte ci vuol, tendiamo ad acquistarci uno sposo. Erbacole, che caldo. Ora, signor Gaudenzio, mio carissimo, che viene il commissario, la man ci toccheremo. A noi, signor. Padrona mia. E lei, signor Bruschino. Che crudeltà. Perché mi chiamo Bruschino? Oh, signor, no. Dunque. Perché con esempio incredibile d'ostinazione. Scusi, di crudeltà, perdoni, di barbarie, oh signor, per un puntiglio, riconoscer non vuol il proprio figlio. Maledette le scuse e di perdoni, signora mia, la supplico, ella chi è? La sposa destinata al suo figlio Bruschino. Si consoli, si sposerà mio figlio. Che signore? Sappia che è un impostore quello che qui si crede mio figliuolo. È così. No, signor mio. Signora, noi la vedremo ora. E non sostini più. Ceda. Onor non sto più saldo. A voi condurvanete alla disperazione ora figliuola, trum Questa la sua lettera che non geglie per lui, ma consegnalo.

Sono venuto per esigere il resto del mio credito e nessuno mi paga. Alla malora!